Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Mamma, ma perché devo sempre correre? E sudo, arrivavo a scuola sudato, tornavo a casa sudato, e quindi mi lamentavo. E mi ricordo che mia mamma si faceva delle discussioni incredibili e mio nonno, essendo taciturno in famiglia, non gli rispondeva mai. Sentivo i passi dei bulli che piano piano si allontanavano, sentivo il loro affanno, ma non mi presero. Non mi presero mai. Ci riprovarono, ma non mi presero mai. Storie di nonni avveduti e di antenati premurosi in una puntata che si intitola Tutto grazie al nonno. Questa è la camera da pranzo. I quadri fanno parte della collezione privata del nonno. Sono stati tutti dipinti da carabinieri suoi colleghi. Quello che mi piace di più è questo, che fanno la collezione sull'erba. Vedo che hai molto buon gusto. Questo è un vero capolavoro. L'ha dipinto il maresciallo maggiore Giuseppe Miscia, c'è anche scritto. Pensa che tutti quelli in possesso dei suoi quadri non aspettano che la sua morte. E perché? Questo non lo so nemmeno io. È proprio solo un lampo di quella meraviglia di film che è Parenti Serpenti, che è un film che di solito si vede e si segue sotto Natale, viene mandato in onda sotto Natale perché è ambientato durante le feste natalizie, è un film del 92, è un film meraviglioso di Mario Monicelli. Questo pezzo in cui c'è il nipote che parla con il nonno è un pezzo magnifico perché dice tantissimo di questo personaggio. Il nonno era interpretato da Paolo Panelli, che è stato un comico, un attore, è stato anche conduttore televisivo, e davvero, anche se non è Natale, andate a vedervi questo film che parla di una famiglia che si ritrova a casa dei nonni in Abruzzo proprio per le feste di Natale. Noi l'abbiamo scelto perché oggi non è una giornata qualunque, oggi è il 2 di ottobre ed è la festa dei nonni, o meglio, se non ricordo male, poi per non fare confusione, la giornata dei nonni, la giornata internazionale dei nonni, ed è una festa che viene indetta nel 2005, quindi compie di fatto 15 anni, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. Noi abbiamo preso questa giornata per raccontarvi due storie che hanno a che fare con dei nonni. Sono storie molto diverse tra di loro, come sempre facciamo, sono storie che hanno un confine nel mezzo, che in questo caso sono da una parte la capacità di un nonno di dimostrare al nipote l'importanza di sapere correre, e scoprirete il perché, dall'altra invece un bisnonno che durante un'epidemia in Africa decide di autoisolarsi, lo fa perché certo il governo del suo paese lo chiede, ma lo fa per salvare la sua progenie, e infatti il pronipote, che è diventato uno scrittore africano, racconta questa storia. Quindi storie di nonni, la puntata si intitola Tutto grazie al nonno, anche per quello, anche perché quel rapporto che è quasi magico tra nonni e nipoti, non sempre, quando generalizzo soprattutto sulle cose di parenti, io so che c'è di là dalla radio qualcuno che sta dicendo: ma forse il vostro rapporto con vostro nonno, con vostro nonno è stato magico, mia nonna era insopportabile. Vabbè, insomma, al netto di questi, di solito il rapporto con i nonni è un rapporto speciale, perché appunto si sono finalmente levati di dosso il tema del dover essere autorevoli e quindi possono semplicemente godersi l'affetto dei nipoti. E c'è un grande tema di autorevolezza, soprattutto nella prima storia, nella storia che riguarda il primo nonno, il nonno di Marino, che questa è una storia molto bella perché racconta un episodio semplice di Marino che riguarda il nonno, chiaramente, se no non lo racconteremmo, con un ringraziamento finale anche, ma dice molto di più, dice qualcosa del luogo da dove Marino viene, che è la campagna, che è Caserta. Insomma, stiamo per cominciare la festa di oggi, la puntata di oggi è dedicata alla festa dei nonni, quindi un bel augurio, questa puntata è dedicata a loro. Benvenuti a Linee d'Ombra. Mm. Fine anni 70. Mio nonno, sopravvissuto a due guerre, aveva il compito di accompagnare il suo primo e unico nipote a scuola. Era un uomo di poche parole, anche se di mestiere faceva osanzaro. Siamo in campagna, in quella sonnolenta cittadina che è Caserta, che, regge a parte, vive dell'ombra di Napoli, ma si gode anch'essa dei pregi dei Campi Flegrei. Cos'è osanzaro? Praticamente in italiano sarebbe il sensale. Fattivamente è un mediatore a 360 gradi e anche di più. Mi spiego. Mio nonno racchiudeva in sé tutte le peculiarità di un'agenzia di servizi, ufficio in un tavolino del bar, quello più rinomato della città, nella mitica Piazza Margherita o Piazza Dante, dove in un modo o nell'altro bisognava per forza passare, una volta in città. Arrivavi a lui in mille modi diversi, ma arrivavi sempre a lui. Per quanto facesse un mestiere di pubbliche relazioni, in famiglia era estremamente taciturno, infatti mio padre questa cosa l'ha sofferta molto. Ancora adesso quando dico il mio nome, che è uguale al suo, Marino, e ancora ci sono le persone che si ricordano, ma tu sei il nipote di Osanzaro, quello che stava in Piazza Margherita, che adesso aspetta, come si chiama? Ha cambiato nome, comunque è la piazza centrale di Caserta, da proprio attaccata, vedi la Reggia praticamente da questa piazza. Ti serve casa? Ti serve un terreno? Un'auto? Un calzolaio? Ti serve una moglie? Una compagna? Anche solo per una notte? Qualsiasi cosa, lui te la procurava o sapeva dove mandarti a cercarla. E ovviamente non era gratis. Ma torniamo a noi. Primo giorno di scuola, mio nonno con la sua bici e io con la mia cartella. Pronti? Via, si va. Lui pedalava e io correvo. Non era lontana la scuola, ma a 5, forse 600 metri per un bambino di 5 anni sembravano infiniti. Ogni giorno chiedeva a mio nonno: «Nonno, perché non prendi un seggiolino per i bambini come fanno tutti gli altri nonni?» E lui, sinteticamente, come sempre, rispondeva: «A Natale lo compro, forza, andiamo!» Nel frattempo correvo e sudavo e mi lamentavo con la mamma, che si lamentava con il nonno, ma lui era una roccia. Sopravvissuto a due guerre. «Corri, corri!» mi diceva. Passa un Natale, passano due Natali. Poi il nonno muore e il seggiolino non arriva. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your Quindi in terza elementare mi accingo ad andare a scuola senza la mia scorta. La strada la conoscevo, era facile. In fondo alla mia via, svolta a destra, poi dopo 500-600 metri a sinistra, dopo dei gradini con la statua di Van Vitelli, c'era la scuola. Il problema erano proprio i gradini, dove su quelle classiche panchine all'ombra si piazzavano i bulli di quel periodo. Ragazzi che avevano solo qualche anno in più di me, ma erano sempre in 4-5. Passa un giorno, passano due e mi notano. Niente genitori. Mio padre usciva alle 5. Mia madre aveva le mie due sorelle piccole da accudire. Il nonno era andato. Loro si sono parati davanti, come facevano praticamente con tutti i bambini più piccoli. Sostanzialmente ti fregavano la merenda, sapevi che sono una bella penna. Sciocchezze, diciamo, per questi tempi. Però tu tornavi a casa abbastanza scioccato, perché è capitato quasi a tutti i miei amici. Al terzo giorno mi bloccano la strada. Si parano davanti, erano in 5. Io ho un attimo di esitazione. Che cosa vogliono da me? Non ho fatto niente. Loro se la ridono, hanno progetti per me. La mia mente è piena di perplessità, non so cosa fare, sono quasi paralizzato, è una situazione nuova. Ho solo 7 anni, che faccio? Mi picchieranno? Mi ruberanno lo zaino? Non ho niente. Mille pensieri mi attanagliano, poi ho una visione, sfocata, poi più nitida. Mi sembra di riconoscerla. Vedo lì la bici del nonno e sento la sua voce. Marino, corri! E corro. Faccio un balzo sul lato e corro come se non ci fosse un domani. Avevo la bici del nonno a farmi strada, sentivo i libri saltare nello zaino, sentivo i passi dei bulli che piano piano si allontanavano, sentivo il loro affanno mentre io avevo 500-600 metri nelle gambe. E non mi presero. Non mi presero mai. Ci riprovarono, ma non mi presero mai. Quel giorno capii due cose. I bulli sono pigri e io avrei corso tanto. Grazie nonno. Secondo me la storia di oggi, la storia di Marino, gira tutto intorno a questa frase. Ti serve casa? Ti serve un terreno? Un'auto? Un calzolaio? Ti serve una moglie? Una compagna anche solo per una notte? Qualsiasi cosa, il nonno te lo procurava. Era O Sanzaro. Pronto? Ciao Marino, buongiorno! Ciao Matteo, come stai? Io sto benissimo, tu come stai? Anch'io bene, dai, stiamo riprendendo un po' la quotidianità dopo le vacanze. Tu che cosa fai nella vita adesso, Marino? Io ho un pub con un socio che gestiamo da qualche anno e stiamo cercando un po' di superare la crisi, diciamo, come qui, tutti. Qui a Milano? Sì, qui a Milano, infatti, quando vuoi passare. Dimmi come si chiama, così. Si chiama Conte Rosso 27, è in Lambrate, è dietro la stazione di Lambrate. Ma quindi robe di birre? Robe di birre, sì, poi facciamo anche i panini con gli hamburgeroni, certo, facciamo certo, pizza senza lievito, insomma un po' di roba particolare, diciamo. Quindi sei venuto via da Caserta diversi anni fa? Sì, in realtà ho preso il diploma di geometra, poi ho fatto il militare, la città di provincia mi stava un po' stretta e sono partito per il primo posto che mi offrì un lavoro, che all'epoca era Modena. Okay. Sono stato lì 7 anni e poi mi sono trasferito a Milano, diciamo, per ragioni sentimentali, diciamo. Per due motivi ci si spostano, per amore e per lavoro, insomma, ce ne sono tanti altri. Senti Marino, quindi ci torni giù, hai ancora parenti, i tuoi genitori, qualcuno? No, appunto grazie alla crisi sono riuscito a farmi per la prima volta dopo anni 5 settimane di ferie, perché ovviamente il locale, insomma, certo, andava certo e non andava, quindi il mio socio ha detto no, io rimango qua in trincea, allora ho detto vabbè, allora vado io. Ne ho approfittato per fare il giro dei parenti, sono stato per la maggior parte a Ischia, ma ho fatto anche un po' Caserta, Napoli, Salerno, insomma ho recuperato anni e anni di assenteismo, diciamo. Senti, ma ad esempio ecco, nel giro con i parenti, le storie del nonno, una storia come questa, la rievochi, la racconti, la ricordi, parli no, di lui? Questa è una delle più famose, anche perché poi il nonno, come ti raccontavo, era uno di poche parole, quindi erano gli altri a narrare le sue gesta, hai capito? Ah, ok, certo. Per cui le gesta a quel punto aumentano in maniera esponenziale, perché sì, poi man mano che si raccontano si gonfiano anche, capito? Ma quindi scusami, la sua intenzione era veramente quella di tenerti in allenamento, o non aveva semplicemente voglia di prendere un sellino? Ma in realtà non lo scoprimo mai, perché a lui non ho fatto in tempo a chiederlo, però essendo un uomo molto pragmatico, secondo me sì, perché i soldi per comprare il sellino ce li aveva e quindi non, Non vedo, poi anche sopportare mia mamma tutti i giorni che andava a litigare con lui, nemmeno. Ecco perché nemmeno... tua mamma si faceva sentire per sta storia. Sì, sì, poi mia mamma è un bel martello, quindi. Quindi tutti i giorni mi vedeva sudato, questo si ammala, poi in realtà io sono un toro, non mi sono mai ammalato, neanche adesso mi ammalo mai. Ma forse grazie a quello. Forse grazie a quello, infatti a me piace pensare che il nonno, diciamo, mi ha fatto sportare. Sì, sì, sì, sì, sì. E tu pensa che per anni, io ho fatto corsa campestre, 3.000 siepi, per anni quando ero agli ultimi 500 metri, che ero in crisi, che mi volevo buttare a terra, perché poi correvamo su sti campi di addestramento per i carri armati, no? Quindi pieni di buche e quindi rischiavi sempre la solita, adesso mi butto a terra e non ce la faccio più. Oh, in quel momento là io vedevo il nonno sulla bici che... Corri, che Marino, dice, corri. Seguimi, corri, corri. Senti, invece quei bulli, vabbè, a parte che insomma testimonia una cosa che tutti quanti sappiamo la tua storia, un'altra cosa che è oltre al racconto, che è che i bulli ci sono sempre esistiti, quelli sì, che facevano gli sbruffoni, semplicemente oggi sono molto raccontati, spesso sono talmente scemi che si fanno i video e quindi poi vengono visti da tutti quanti, però ci sono sempre stati, no? Nei paesi, io nel mio paese cioè avevo quello che non mi seguiva però mi puntava, insomma in qualche modo ognuno di noi forse, a meno che non sia stato un bullo, ma forse anche i bulli stessi ce l'hanno avuto, quello che in qualche modo torturava. Li hai mai più visti quelli? Li hai mai più, insomma... Guarda, lì è come si vede, sai, anche nelle storie dei telefilm americani, sai, sì, il quarterback che fa il bullo, poi diventano degli sfigati. Sì. Lo sono già, in realtà. Lo sono già, sì, effettivamente, solo che non lo sanno. Poi crescendo, magari tu diventi un ingegnere e lui va a fare il benzinaio, con rispetto per entrambi i mestieri, però sai, dalle ambizioni che si avevano da ragazzi, questi invece hanno preso delle strade che secondo me ne hanno portati a magari anche a sbagliare. Sì, sì, sì, certo, certo. Senti Marino, prima di salutarti, esiste ancora la figura di Osanzaro, cioè il sensale, figura meravigliosa nei paesi? Esiste, però è più borderline, nel senso che non c'è più questo ufficetto al bar al centro del paese, perché poi Caserta alla fine adesso è diventata molto grande. Ah, perché aveva un ufficio lui? Sì, diciamo che l'ufficio era il suo tavolino, okay. non aveva le pareti, okay, non aveva la segretaria, okay. Ma era il suo tavolino che era suo e nessuno lo poteva toccare, i proprietari del locale, i camerieri lo sapevano, anche se lui aveva ritardo, il tavolino era suo. Certo. E adesso è più borderline, nel senso che ci sono varie agenzie, però in realtà se c'è l'amico che ti trova la casa o il terreno è sempre meglio. Funziona sempre, certo. Marino, ti ringrazio moltissimo per la storia, per la chiacchiera, in bocca al lupo per il tuo pub. E anche se non bevo, passo a trovarti, assolutamente. Ciao Marino, grazie mille, in bocca ciao, al lupo. Grazie a te, ciao, ciao, Matteo, ciao, ciao, ciao. Now my grandfather's clock was too large for the shelf, so it stood 90 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, though it weighed not a penny weight more. Now it was bought on the morn of the day that he was born, and was always his treasure and pride. But it stopped short, never to go again, when the old man died. Oh, now my grandfather said that of those he could hire, not a servant so faithful he found. For it wasted no time, and it had but one desire, at the close of each week to be wound. Grazie a Marino per la sua storia. Corri Marino, corri. Oggi una storia così probabilmente non potrebbe essere raccontata perché il nonno verrebbe denunciato da qualcuno, ma tant'è, grazie per avercela raccontata. Come si suol dire in questi casi? Ma erano altri tempi. Ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo con una nuova storia, sempre qui, sempre che parla di nonni, qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Carey Baraka è uno scrittore keniano che questa primavera si è ritrovato in quarantena per un focolaio di coronavirus a Nairobi, la città in cui vive. Da quell'esperienza ha raccontato la storia del suo bisnonno e di come in Africa si rispondeva alle epidemie, già oltre 100 anni fa. La sua storia l'abbiamo letta su una rivista inglese che si chiama QZ.com, cioè QZ.com. State con noi. In questi ultimi giorni ho pensato spesso al mio bisnonno e a come io sono vivo grazie al fatto che più di un secolo fa lui decise di auto-isolarsi in quarantena. Verso la fine del XIX secolo, due grandi epidemie di trypanosomiasi africana si sono diffuse in quel che oggi è l'Uganda orientale e il Kenya occidentale, meglio conosciuta come la malattia del sonno. La malattia è trasmessa agli esseri umani dalle mosche tsetse che hanno contratto l'infezione da persone o animali infetti. Una volta infettato, il paziente sviluppa dolori articolari, mal di testa, febbre, poi diventa molto sonnolento. L'infezione provoca anche un gonfiore dei linfonodi nella parte posteriore del collo. Una volta che l'agente patogeno infetta il sistema nervoso centrale, il paziente diventa letargico oppure pazzo, poi entra in coma e infine muore. La malattia era ed è tuttora particolarmente attiva proprio intorno alle sponde del lago Vittoria. Questo insetto poi è unico perché intanto sia a differenza delle zanzare, sia il maschio che la femmina usano, si nutrono di sangue di vertebrati. Quindi sono vettori, a differenza della zanzara, sono vettori sia di patogeni sia il maschio come la femmina. Durante la prima epidemia, durata tra il 1896 e il 1906, circa 300.000 persone e 500.000 persone sono morte nel bacino del Congo, rispettivamente nell'attuale Uganda da una parte e Kenya dall'altra. Qualche anno dopo, poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, si verificò una seconda epidemia. L'epidemia iniziò in alcuni paesi africani nel 1920 e si estinse alla fine degli anni 40. Il mio bisnonno, che si chiamava Amoko Won Agak, viveva da qualche parte vicino al lago Vittoria, in una zona densa di mosche tsetse. Quando la malattia si diffuse rapidamente nella regione, molti dei suoi coetanei e parenti morirono. Prima dell'epidemia, Amoko aveva 6 mogli. Tuttavia, man mano che la gente moriva a causa della malattia, il numero delle mogli aumentava. Non perché mio nonno continuasse a sposarsi, ovviamente, ma perché tra i Luo, cioè quella tribù, c'era un'usanza chiamata Lako, che stabiliva che alla morte di un marito, il suo fratello, grosso modo, assumeva i ruoli e le responsabilità della casa del defunto, anche nei confronti della moglie, delle mogli e dei figli. Amoko, mio nonno, divenne quindi marito di 10 mogli. Tra il 1930 e la sua morte, nel 1960, finì anche per interpretare il ruolo di sostituto del padre per diverse figlie, che diventavano spose. Il mio bisnonno e le sue mogli sono sopravvissuti perché si sono auto-isolati, trasferendosi fisicamente in una parte relativamente poco occupata del Kenya occidentale, a Kendu Bay. Lì viveva un amico del mio bisnonno, ma soprattutto un gruppo di missionari cristiani ci aveva costruito un ospedale. Your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. I got something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. La malattia del sonno esiste in Africa da secoli. Le prime testimonianze scritte di questa malattia nella storia occidentale sono del 1742. Tuttavia, anche prima di loro, le comunità africane sapevano della malattia e sapevano che era trasmessa dalle mosche tsetse. La gente appiccava il fuoco a vaste aree di cespugli per liberarle dalle mosche tsetse e da animali come facoceri e maiali, sul cui sangue le mosche si nutrivano. L'autoisolamento e il movimento fisico del mio bisnonno durante la seconda epidemia di malattia del sonno faceva parte di una strategia coloniale più ampia per affrontare la malattia. La strategia era diversa nelle diverse colonie. Durante la prima epidemia, il governatore dell'Uganda ordinò agli africani di spostarsi in zone libere da mosche, a 2 o più miglia dal lago Vittoria, e proibì la pesca e la vendita o il possesso di pesce. Disse: «Dobbiamo allontanare dagli insetti la fonte del loro contagio. L'intero paese deve essere spopolato. Mi sembra che non ci sia altra soluzione se non quella di allontanare tutti dalla portata delle mosche per un periodo indefinito». Epidemia, una parola che pensavamo di leggere sui libri di storia e non di viverla, viene dal greco ed è composta da epi, sopra, e da demos, popolo, da cui la radice di democrazia. Quindi epidemia significa letteralmente sopra il popolo, nel senso che come una pioggia arriva e colpisce senza fare distinzioni, piove sul giusto e sull'ingiusto, una famosa frase biblica. Il primo a utilizzare questo termine fu Omero, in cui l'epidemia è un castigo divino di Apollo verso i greci per punire il loro re Agamennone che aveva rapito la figlia di un sacerdote. E quando l'epidemia assume purtroppo proporzioni immense mondiali si parla di pandemia, dove al demos di popolo viene anteposto pan, che significa tutto. Nel Congo belga, i belgi imposero un cordone sanitario attorno alla popolazione infestata dalla mosca, aprendo dei campi per gli infetti sorvegliati dai soldati per evitare che la gente fuggisse. In seguito hanno ideato un sistema di squadre mediche mobili che andavano di villaggio in villaggio esaminando le persone. In Angola, una colonia portoghese, ai detenuti veniva fatto sgomberare il sottobosco vicino agli insediamenti umani, gli venivano fatte drenare le paludi e abbattere gli alberi. Le mosche tsetse erano attratte dal panno nero, così i portoghesi facevano andare in giro operai vestiti di nero a catturare e uccidere quelle mosche. Lo scorso 6 di aprile del 2020, il governo kenyota ha vietato i viaggi in entrata e in uscita dalla capitale Nairobi per 3 settimane. Al momento dell'annuncio, io mi trovavo in un reparto di isolamento in un ospedale di Nairobi come misura precauzionale. 100 anni dopo che il mio bisnonno si era autoisolato, le ruote della storia hanno girato e ora eccoci di nuovo qui. La storia è una storia che ha appunto raccontato uno scrittore keniano che si chiama Karei Baraka su questo magazine che si chiama QZ.com e ci racconta una cosa semplice che conosciamo, che le epidemie ci sono, che arrivano, che passano e che ritornano ancora con una ciclicità che a noi non è data di conoscere. Questo diciamo non ci solleva, ma in qualche modo ci fa capire che si è passato oltre, l'uomo è andato oltre con metodi chiaramente più svariati da un punto di vista della legalità o dell'illegalità. Qui si parla di persone che venivano isolate con la forza, ovviamente, in certi campi, però uno è il metodo attraverso il quale le epidemie si combattono, e cioè la quarantena e l'isolamento. Tant'è, speriamo di non ritornarci. Ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Provare, provare, provare, provare, provare, finché non riesci a dire si può fare. Sono Laura Bettini e vi racconterò i tentativi e i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Ogni sabato e domenica alle 8.30 su Radio 24. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Ho deciso, investo i miei risparmi online. Sicuro? Sì, con Poste Italiane. Scegli Poste Futuro Investimenti, l'offerta di Poste Italiane per investire ovunque tu sia. Avrai un team dedicato e la competenza di Moneyfarm per la gestione dei tuoi risparmi. Fidati di chi conosci, affidati a Poste Italiane. Vai su poste.it/postefuturo o chiama l'800 022 000. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poste Futuro Investimenti è il canale digitale per gli investimenti che offre il servizio di gestione di portafogli prestato da Moneyfarm e collocato da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. Il servizio ha un andamento legato alle dinamiche di mercato. Prima di sottoscrivere i contratti, leggi la documentazione su poste.it/postefuturo. Linee d'ombra. Nel viaggio che abbiamo intrapreso, grazie a Mauro Pescio, grazie a tutta la famiglia Cocco, all'interno delle lettere che questo giovane uomo, Antonio Cocco, scrive al padre a casa dopo essere scappato da Venezia verso la Francia ed essersi arruolato in maniera quasi coatta all'interno della legione straniera, sono lettere strazianti e lo sono sempre di più mano a mano che vanno avanti. È come se a un certo punto, e le scorse lettere ce l'hanno spiegato, a un certo punto si è rotta quella barriera di pudore che Tony ha nei confronti del genitore, del papà a cui scrive, e quindi anche di tutti i familiari. Prima è come se li volesse proteggere, ma a un certo punto la vita lì evidentemente è talmente dura che lui stesso dice: non ce la faccio più, qui è un inferno. La parola inferno è inferno in terra, è proprio una parola, è una locuzione che lui usa molto spesso per cercare forse di fare capire al padre. E anche in questo episodio lui nuovamente dice: forse non mi sono spiegato bene, cioè forse non avete capito che cos'è questo luogo. Erano gli anni 50, la legione straniera probabilmente la si conosceva molto molto poco e non c'erano i mezzi per informarsi. Oggi, se si cerca legione straniera, uno dei primi siti che appare è quello della legione, in cui ci si può anche volendo arruolare, cioè si può capire cosa fare per arruolarsi. E poi ovviamente, come per tutto, è pieno di video, è pieno di istruzioni per l'uso, diciamo così. All'epoca invece forse si sapeva solo che era un luogo, era un corpo dell'esercito francese, dove ci si poteva quasi nascondere all'interno appunto di questa legione. E però Antonio chiaramente ha fatto il passo più lungo della gamba, ha fatto proprio un clamoroso errore, quel passo ha varcato la sua linea d'ombra e purtroppo non riesce a tornare, anche se nella lettera al padre a un certo punto lui chiede espressamente come va il lavoro, dove per lavoro non si intende il mestiere del padre, ma questo tentativo che il padre ha messo in atto di smuovere mari e monti per farlo tornare a casa. Caro papà, ho ricevuto oggi la tua lettera. Non so che giorno siamo, qui ho perso anche la cognizione del tempo e mi affretto ad avvertirti che l'ho ricevuta. Tu mi parli di fede in Dio, di sperare nella sua misericordia, ma come posso farlo? Ho provato e riprovato, ma a me è impossibile. È una cosa assurda, qui, pregare. Quando ti butti a letto, sei morto dal sonno e t'addormenti subito. Di giorno sei sempre in moto e a contatto con persone che non ci credono e che lo bestemmiano. Forse tu, babbo, non ti sei ancora fatto un'idea esatta di che cosa sia qui la vita e la legione. E spiegartelo per lettera mi sarà sempre impossibile. Caro papà, qui ti sto scrivendo un sacco di cose che ti daranno un sacco di dispiaceri, ma mi sono proposto d'essere sempre sincero in tutto con te, e specialmente in questo periodo. Non rileggo nemmeno quello che l'altra sera ho scritto, perché sono sicuro di essere stato troppo crudo, ma forse è meglio così. Spero che tu sia stato altrettanto sincero nel diario che ti sei proposto di farmi leggere e che faccia vedere per filo e per segno l'enorme lavoro che hai fatto e che stai facendo, e lo strazio di te e di mamma, e l'ansia e le conseguenze del mio folle desiderio di libertà. Delle lettere che mio papà aveva scritto a Tony, subito dopo che è morto il papà, ne sono state stampate 9 copie consegnate a uno di noi. E a un certo punto, 2 anni fa, roba del genere, io ho consegnato all'archivio la mia copia, e mi sembrava giusto e bello che ci fosse depositato anche questo. E sono riuscito a recuperare gli originali delle lettere di mio padre. Erano a casa di mio fratello Ciccio, infilati chissà dove, così, in qualche modo il figlio di mio fratello è riuscito a trovarli, me li ha portati, sono dei quaderni scritti a mano. Quello sì ritengo sia una cosa abbastanza personale, così, no? Cioè, mentre le lettere di Tony, secondo me, è giusto che vengano divulgate, lette, così, queste qua, tutto sommato, sono pensieri che non è che certo possono servire a qualcuno, se non come interesse storico, non lo so, insomma. Inutile ti scriva quanto mi abbiano commosso le tue lettere. Quando sento il mio nome pronunciato tra quelli di quelle lettere, sento il mio cuore gonfiarsi dalla gioia e dalla curiosità di sapere ciò che mi scrivi. Io ti ho scritto 2 lettere di quelle che tu mi hai detto di scrivere. In una ci sono 3 fotografie fatte qui e vorrei tu ora scrivessi per sapere se le hai ricevute tutte. Come va il tuo lavoro? Quando parla del lavoro, probabilmente Tony allude, con un linguaggio che gli permette di sfuggire a un'eventuale censura, a tutto ciò che il padre Luigi stava tentando per farlo uscire dalla legione. Da quando sono stato chiamato dal tenente circa 2 settimane fa, non ho più avuto alcun interrogatorio. Spero tu riesca a portarmi via, perché papà, non credo che resisterò a farcela per molto. Oggi abbiamo fatto il primo esame e forse fra 15 giorni partirò per Setif, per il corso paracadutisti. Non posso più tirarmi indietro. Quel che è fatto. Per questo sono desideroso di sapere a che punto sei. Un abbraccio affettuoso. Un bacio a tutti. Tuo figlio Tony. Church on Sunday morning, Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. Used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If If I get to heaven, I'll look for Grandma's hand. Si chiude qui anche l'ultima puntata della settimana di Linee d'Ombra. Vi ricordo che potete scriverci, approfittate del weekend per scriverci una storia che abbia una linea d'ombra nel mezzo a lineedombra@radio24.it, oppure mandateci un messaggio vocale, un audio di WhatsApp, come vi dicevo in apertura, a questo numero 331 57 55 721, che racconti una linea d'ombra che state vivendo in questo momento preciso, in un racconto a parole, un paio di minuti. Godetevi questo fine settimana. Noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.